L'uomo allo mio servizio non teme né piova, né sole, né fuoco, né vento. Lo qua la servizio, siamo tutti allo pari. Silenzio! Io vi sono duce! E però mi dovete obbedienza e dedizione. Il nostro cammino sarà cosparso di sudore, lacrime e sanguine. Siete voi pronti a tanto? Rispondete a una voce. Siete voi pronti a morire pugnando? Noi marceremo per giorni, settimane e mesi, ma infine avremo castella, ricchezze e bianche femmine dalle grandi pupe. Buonasera, buonasera. Vi annuncio, eccone. Vi annuncio che ho preso possesso di In Punta di Pedale. Ho fatto fuori Briccobaldo. Siamo tornati, seconda puntata della stagione. E niente. E quindi, essendo Briccobaldo rinchiuso nei sotterranei della Tana. Non è vero. Si è liberato. Ci avevo provato, eh. Ci ha provato Denver, ma io glielo lascio volentieri, eh? Ah sì? Certo. No. Sì. Al Pro de Denver, certo che glielo Pro lasciamo. Pro de Bricco, è fondamentale la tua presenza e la tua benedizione dall'alto. La puntata di oggi... Dall'alto di una radio dal basso, tra l'altro. Esatto, bravo. Dall'alto di una regia di una radio dal basso. La puntata di oggi la facciamo un po' speciale, un po'... Ci siamo stancati di stare sempre in città e... ci è venuto in mente di fare una passeggiata fuori porta. Quindi faremo una puntata dedicata ai viaggi fuori porta o alle escursioni fuori porta. Che bello. E che per bello, questo bellissimo. Abbiamo invitato un po' di ospiti. Ora qua sono tanti, però sono tanti, ma bene. La Tana del Wombat è grande, è spaziosa. Ma cioè, se ne è aggiunto anche uno, fra l'altro. Sì, è comparso come un fungo. È comparso un altro. Prima non c'era, sinceramente. Bene, ciao ragazzi. Allora, intanto io ho scelto un sottofondo balcanoso, ve lo ripropongo. Perché Denver un sottofondo balcanoso? Perché abbiamo un viaggiatore che si è balcanizzato, cioè è andato a fare un giro in bici per i Balcani. In particolare in Grecia, anzi proprio sulla punta dei Balcani ha fatto un giro del Peloponneso. E lo possiamo presentare adesso, il nostro Cosmic Biker, Nick. Buonasera, ora accendiamo il microfono di Nick. Ce l'abbiamo. Buonasera. Oh, eccoti, grazie. Come va? Bene. Siamo belli carichi questa puntata. E quindi abbiamo messo un po' di musica balcanica, poi però passeremo a chiacchierare anche con una crew più legata al territorio fiorentino e toscano, che sono i ragazzi del Frolens Enduro Crew, che sono qui. Ora li presento, visto che hanno dei nomi un po' difficili. Dai, sì, allora autopresentatevi, visto che avete nomi difficili, è vero, le crew hanno dei nomi assurdi. Sì, ci troviamo a leggerli, io sbaglio sempre, quindi dai. Salve a tutti, siamo io, Brick, e il mio amico Trick. Brick e Trick. Brick e Trick. Torna anche bene insieme. E quello che è spuntato adesso? Che è spuntato adesso si chiama Track. Track, è anche facile. Che Trick, Brick e Track. E loro ci chiacchieremo un po', visto che hanno fatto un giro interessante, hanno fatto la Via degli Dei. E ci racconteranno un po' le loro esperienze. Passiamo un po' di notizie prima. Un po' di notizie? Ce l'hai notizie? Dai. Beh, innanzitutto vi raccomandiamo di andare sul nostro sito wombatnoblogs.org, dove troverete potete ascoltarci in streaming, ovviamente, e dove più tardi troverete il podcast e tutte le altre trasmissioni della radio del Wombato. Se ci volete scrivere a posta wombat@insiberia.net E poi abbiamo la nuovissima app Android. Nuovissima app Android che però forse ancora non è stata caricata sul Blogs, ma ci sarà presto. Ah. Ci sono delle migliorie. Ci sarà la possibilità di ascoltare anche i podcast, non solo lo streaming. E poi ci sono i 39.59 in AM. 13.59 AM. 13.59 AM, scusate la dislessia. Anche 30, 39 non esistono, quindi comunque. No, direi di no, decisamente no. E va bene, allora si inizia a interrogare il viaggiatore numero uno, che dici? O dai, sì, sentiamo il viaggiatore numero uno. Ah, eccolo qua. Michele. Buonasera, buonasera. Raccontaci un po'. Che giro hai fatto? Quando sei partito? Quando sei tornato? Subito, così a botta, colpo secco. Va bene. Allora, io sono partito, ho fatto un giro da partendo da San Casciano in Val di Pesa e andando meta a Peloponneso. Oh. Sono partito 2 anni fa, il 16 ottobre, che faceva anche un po' freschino qua. Ah. Che non ero sicuro di... Era poi era il primo viaggio che avevo mai fatto in bici. Sicché 2 mesi prima avevo fatto nessuna preparazione di qualsiasi tipo. Avevo cominciato a prendere la bici e andare in paese, che sto in campagna. Sicché ho cominciato a fare questi giri e ho deciso perché non fare questo giro in bici. Partito 16 di ottobre. Sì, del 2016, e sono partito da San Casciano e sono andato a direzione Ancona per poi prendere un traghetto per arrivare nel Peloponneso. Senti, una domanda, ma sì. Senza preparazione così, quando ti sei trovato a tagliare l'Appennino? Perché ho visto le facce dell'Enduro Crew che hanno fatto hanno sgranato gli occhi. Senza preparazione l'Appennino come l'hai fatto? L'ho fatto senza preparazione, in qualche modo. Con la lingua di fuori. Sì, esatto. Alcuni punti erano parecchio, insomma, parecchio. Da dove sei passato? Allora, sono passato, ho seguito l'Arno, sì, che ho fatto tutti i figlini Val d'Arno, San Giovanni Val d'Arno, per arrivare un pochino sopra Arezzo, per poi tagliando verso Città di Castello. E sì, da poi quando sono andato da Arezzo dall'altra parte, lì è cominciato un po', insomma, punti tosti, per esempio anche a Cagli, che è un altro paesino lì vicino. Ci hai lasciato polmoni? Sì, polmoni, gambe, tutto. Però il bello del cicloturismo è che non c'hai fretta, no? C'hai tutto il tempo che vuoi, quindi esatto. male ti accampi lì, tiri fuori la tenda, dormi e il giorno dopo affronti la salita, forse. Esatto. Sì, non avevo nessun, diciamo, tempi, c'avevo un po', insomma, c'avevo tempo di fare. Che, insomma, con tranquillità ce l'ho fatta, anche facendo qualche giro intorno a me stesso. Però sì, alla fine sono riuscito. Poi sono arrivato a Ancona. Senti, ma mappa o Google Maps? Allora, un po' tutte e due. Ho usato un po' la mappa per un po', e poi anche Google Maps, in più qualche app per le biciclette, che mi è servito tanto per anche sapere dei altri opinioni di altri ciclisti che hanno fatto la strada super giù uguale. Sì, maggior parte anche lì per GPS, insomma, calcolare per caricare tutte queste attrezzi elettronici. E alcune volte che non ti funziona proprio e devi, insomma, andare o chiedere. Infatti tante volte era meglio chiedere alla persona le direzioni. Top. Ma sì. Quanto ci hai messo i giorni per arrivare ad Ancona? Quanto ci hai allora, messo? Allora, ci ho messo 5 giorni. Perché sono 260 km da San Casciano ad Ancona. Che ci ho messo 5 giorni, una cinquantina di chilometri al giorno. Molto tranquillo. Sì. Cioè, l'idea è che il viaggio, cioè, non deve essere una cosa che ti bruci subito, no? E deve essere qualcosa che piano piano ti pervade, va. Esatto, qualcosa. Sì, infatti l'ho fatto per questo motivo qui, per un viaggio un pochino più lento, un pochino più, diciamo, che potevo osservare molto di più e incontrare anche persone per, insomma, vari paesini e conoscere un po' il territorio anche, diciamo, dell'Italia. Ok. Ora, io guardo le facce dell'Enduro Crew, quindi li coinvolgiamo. Allora, lo fareste mai un viaggio, Track, tu che ti vedo pronto, lo faresti mai un viaggio senza preparazione, così partire a razzo? Sì, ora noi non avevamo tutta questa preparazione comunque. Ah, ecco. Andavamo prima a fare qualche giro, però cioè, rispetto a quello che abbiamo fatto poi non eravamo così tanto allenati. Infatti qualche punto è stato il tosto. Ho capito. Ma allora aspetta, raccontiamo tutto. Avete fatto la Via degli Dèi? Abbiamo fatto la Via degli Dèi. Come nasce l'idea di fare la Via degli Dèi? Ci è venuta tipo ci abbiamo pensato per tipo 9 mesi da tantissimo. È un bambino, l'abbiamo studiata in tutti i modi possibili. Poi abbiamo detto vabbè, siamo partiti da Bologna. Cioè abbiamo preso un treno Firenze-Bologna, perché avevamo letto che è molto più semplice Bologna-Firenze rispetto al contrario. Sì. E da lì nulla, siamo partiti, ci siamo fatte in 3 tappe, prendendola anche noi molto con calma, andando a fare i giri intorno a dove ci fermavamo, e siamo arrivati poi a Firenze la mattina del quarto giorno. Grande. Ma che esperienza vi ha dato? Che stato d'animo? No, sicuramente è stato divertentissimo, anche perché fatto con gli amici, certo. Dormire in tenda, così, l'avevamo già fatto tutti, però... È sempre bello. E poi dovessi portare la tenda dietro sulla bicicletta è una bella esperienza. Il anche massimo. Fermarsi con i fornellini, tutto il cibo liofilizzato, insomma è stato... Il cibo liofilizzato, sì, ci hanno portato quello, i fornellini dietro, le gamelle. Wow, attrezzati. Questi sono attrezzati. è stato tosto, sì. Bello, bello. Effettivamente sulla Via degli Dèi è difficile trovare un supermercato? Sì, cioè, si passa per alcuni si trovano paesini. Botteghe? Sì, si passa per paesini dove si trovano dei supermarket. Dei botteghini. Però sì. Ci piaceva più Madonna dei Fornelli. Noi siamo fermati a Madonna dei Fornelli. Una notte abbiamo dormito dentro un bed and breakfast perché pioveva. E siamo fermati lì. Perché, allora, c'è da dire 2 cose. Florence Enduro Crew, l'approccio è il fuoristrada il più possibile, giusto? Mm-hmm. Cioè andare nel bosco, seguire la traccia nel bosco, niente asfalto, niente giro in asfalto. Quindi è un approccio diverso rispetto a un cicloturista come può essere Michele, che fa l'asfalto e quindi c'è più probabilità di passare da un coso. E poi Briccobaldo vi corregge, perché Briccobaldo ha fatto il cammino. Io l'ho fatta, sì, però l'ho fatto a piedi, non l'ho fatto... La Via degli Dèi, sì. L'ha fatta a piedi. Bello. L'ho fatto a piedi in 4 giorni. Wow. Con una acquata nei denti, tra Madonna dei Fornelli, il passo della Fusa, il fango davvero in alcuni punti fino alla cintura, è stata una roba assurda. E poi noi non siamo andati nel B&B, non siamo andati, insomma, abbiamo dormito in tenda sotto l'acqua, no? È stata una roba assurda, wow, veramente. Wow. Però bellissimo, soprattutto il tratto Madonna dei Fornelli Fusa, tutta la via a Piantica, se non mi sbaglio. Ma bellissima. Com'è che ci hai messo 4 giorni e loro ci hanno messo anche 4 giorni? Allora, ci ho messo 4 giorni perché io ho sgrupponato e ho fregato un paio di passaggi. Ah, ecco. Fra l'altro. Giusto. Noi ci siamo anche fermati un giorno, avevamo un'amica che abitava lungo la Via degli Dèi, ci siamo fermati un pomeriggio intero. Vabbè, l'abbiamo presa proprio con calma, cioè senza doveva essere una puntata di avventure, dico, invece no, finisce, uno va al B&B, l'altro va dagli amici, cioè, vabbè. Sì. No, vabbè, comunque il senso di libertà, no, di portarsi, certo, tutto dietro, che dici, certo. Mick? Sì, è no, la cosa bello. Più bella del cicloturismo, molto, no? Dove voglio mi fermo. Esatto. Infatti poi ti trovi nei posti, il primo posto a Figline del Valdarno mi sono trovato in un bosco, che sono arrivato la sera, perché hai visto poi andando in bici devi insomma calcolare un po' i tempi giusti, perché ci vuole un po' per calcolare per dove ti fermerai, se è un posto diciamo sicuro. Poi per me ero da solo, sicché era un pochino più, insomma, dovevo stare doppio attento. E la prima sera mi sono fermato in un boschettino dove c'erano delle casette di legno, però non vedevo niente. Sicché, insomma, ho messo la tenda subito e sono andato a dormire. Il giorno dopo mi sveglio e c'erano dell'altra gente lì e mi hanno detto che era dove squartavano i cinghiali. Oh, madre. Quando dopo la caccia vanno lì e li puliscono. Tanto da lusso, diciamo. Sì, ma poi è stato bello perché erano lì a fare anche un caffè, sì, che mi hanno fatto un caffè, ci siamo messi lì a ragionare, tranquilli, insomma. Anche quello, nessun disturbo, non ho mai avuto disturbi. E in qualsiasi, cioè tutto il tempo, campeggiare ovunque, anzi, le persone erano ancora più ci sono abbassate un po' le guardie in un certo senso, perché ti vedono da solo, non con diciamo un gruppo di persone, e sono più incuriositi che altro. Io sì, a viaggiare da solo in bici per i viaggi che ho fatto io, l'esperienza è quella, no? Che si abbassano le guardie, come dici tu, quindi si fa conoscenza più facilmente, si conosce davvero di più il territorio. Wow. Perché chiacchieri con le persone, chiacchieri col nonnino del posto. A me è capitato in Corsica, quando feci questo viaggio in Corsica, ero in un posto ignoto, non c'era nemmeno sulla carta. Arrivo a questo bivio, c'era questa casa diroccata, e sull'uscio di questa casa diroccata c'era il vecchino che sembrava un vecchino siciliano, no? Quindi un po' mi sentivo a casa, si capisce dal mio accento, no? Sì. E era proprio lì col bastone, quello, il bastone tutto un po' piegato, un po' vecchio, il cappello, la coppola, certo. E mi fa, figliolo, non venite? Com'è che questo parla? Perché poi alla fine scopri che il corso lo capisci se hai, se vieni, cioè se certo, hai quell'accento lì, no? E si finì a chiacchierare con questo che italiano non ne parlava, mi parlava in corso, però certo, ci si capiva, e mi ha dato gli sgami per andare a comprare, per dire il pane è buono, certo, e esatto, vai più in esatto, giù e trovi, bellissimo. Sono queste piccole cose qui che ti facilitano anche e ti rendi conto un po' che guarda, potrei veramente girare un bel po'. Voi ragazzi invece incontri sulla via degli dei con altri... Ok, sì, sicuramente è diverso, perché quando siamo in gruppo, si creano dinamiche diverse da quando si va da soli, certo, a fare un percorso lungo così. E sicuramente sono anche situazioni che ti uniscono molto. Infatti in quattro ci siamo divertiti da morire. Poi ovviamente uno si deve aiutare, deve fare forza all'altro, perché magari l'altro ha meno energie, è più in difficoltà così, e quindi sono tutte situazioni che riescono a unire in qualche modo. Beh, cosa che si vede benissimo dal video, anzi vi invito ad andarlo a vedere, il video è La Via degli Dei, okay, sul loro canale sì, YouTube. Florence Enduro Crew, lo cercate su YouTube e trovate i video, sì, che facciamo, e La Via degli Dei anche. Che è un'esperienza che vi ho invidiato. Cioè, avessi avuto giovinastri voi, avessi avuto l'occasione di farla alla vostra età, deve essere proprio una cosa che sì, ti unisce, è no? Bello, che ti bello. Crea... Poi eravamo proprio, cioè, ora abbiamo 18 anni, capito. Un anno fa 17, insomma, eravamo proprio giovani. Sì, è il momento che ti lega di più. Vedo Briccobaldo inquieto. Briccobaldo, sì, no, bello, stavo riflettendo, perché appunto anch'io ho fatto La Via degli Dei e... Ma perché raddoppiate tutti la D? Posso farvi questa domanda? La Via degli Dei? La Via degli Dei. È vero, Dicevi Bricco. È stato bello, un bel percorso. A me è piaciuta, devo dire, più la parte toscana, della parte romagnola. Sei il solito campanilista. Anche sono il solito campanilista. Sei la manica, sì, di campanilista. La prima parte, fra l'altro, è anche segnata male, quindi mi sono perduto. Ma quanto tempo fa l'hai fatta? L'ho fatta nel 2014. No, perché ora è segnata meglio. Vedi. Okay. Sì. Bene. Allora i nostri accidenti sono serviti a qualcosa. Ma posso farvi una domanda? L'avete fatta dopo aver letto il libro dei Wuming? Nessuno io, né no. Bricco né no, loro. Però appunto io più che altro riflettevo sulla questione che si creano relazioni particolari, soprattutto quando vengono fatte cose che non richiedono nient'altro tranne le relazioni, perché andare nel bosco in bicicletta in quattro, fare un viaggio, ecco, hai davvero a che fare sì con la bicicletta, ma poi c'è la natura, ecco, quello che viene esaltato, quello che conta davvero è quello che si crea. Sono le cose particolari che si creano fra i componenti del gruppo che affronta un viaggio, un'avventura o via discorrendo. Io ho fatto varie esperienze di questo tipo e mi ha sempre colpito vedere nelle persone a volte delle cose che mai mi sarei aspettato, anche trovarmi di fronte, sì, a persone che poi arrivo a dirmi non conoscevo abbastanza bene, perché... Certo, situazioni particolari o... Sì. Ma te, poi noi ci siamo fermati che te eri arrivata ad Ancona, no? Sì. Riavvolgiamo. Certo. E poi vabbè, ad Ancona hai preso il traghetto. E poi sei sbarcato in Grecia, dove non parlano una parola di inglese, immagino. Lì poco, sì. Quindi come hai fatto? Quindi sono arrivato a Patrasso, sì, lì, e per fortuna avevo un parente della moglie di mio fratello, che lei è greca, che stava lì, però era lì per qualche giorno. Oh, ma c'avete tutto il trucco, questi c'erano l'amicizia. Ragazzi, ma è per forza. in qualche andiamo maniera. Avanti, sicché sì, sono arrivato a Patrasso un giorno lì, e poi sì, c'era da decidere se andare a destra o a sinistra intorno al Peloponneso. Chiedendo a varie persone, sono uscito quella sera, insomma, a chiedere com'è la situazione qui per la bici. Non avevo fatto nessuna ricerca, niente. Forse è la cosa più bella, perché scopri lì per lì e basta. Sì, esatto, esatto. Ci metti un pochino di più. Si bestemmi di più. Però sì, da lì insomma, ho deciso di partire e andare a sinistra. Sì. A nord. Esatto. E beh, da lì poi sono partito. Poche salite. Come scusa? No, dicevo, niente, Peloponneso, hai fatto la costa? Sì, ho fatto tutta la costa fino a Kalamata. Che insomma è tra se il Peloponneso è come una mano rovesciata con le dita, è tipo al secondo dito e metà. Okay. E anche da lì iniziavano un po' le salitone. Le salitone, infatti, dopo un mese e mezzo che ero lì, ho detto: dai, forse allora è ora di tornare. Sì, sono andato verso Atene. Uh-huh. E poi sì, un paio di giorni ad Atene. E poi ho ripreso. Però tornare ad Atene. Cioè, già arrivare a Patrasso, forse. No, arrivare in queste grosse città, poi arrivare ad Atene, che. No, mi sono spaventato proprio ad Atene. Arrivando con la bicicletta la sera, con l'autobus, sì, alla stazione ad Atene. mi levo di torno. Chi sì, me l'ha fatto male. Esatto. Da piangere, oserei dire. Esatto, no, senti, stavo male. Ne approfitto, una canzone triste, ve la passo. Vai. Sì, dai, per un attimo smorzare. Certo. Sì, una canzone... Ma proprio triste. Mamma mia. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights uptown. I wasted my time when I would try. 'Cause when the lights have lost their glow, you'll cry. Soon your sugar daddies will all be gone. You wake up some cold day and find you're alone. You'll call for me, but I'm gonna tell you bye. When I turn around and walk away, you'll cry. You're gonna cry, and you'll cry alone. When everyone's forgotten and you're left on your own, you're gonna cry. Question that I ask, I get a lie. For every lie you tell, you're gonna cry. When your fickle love gets old, no one will care for you. Then you'll come back to me for little love that's true. I'll tell you no, and then you'll ask me why. When I remind you of all of this, you'll cry. You're gonna cry, and you want me then. It'll hurt when you think of the fool you've been. You're gonna cry. Anche le foche bevono Radio Wombat. Tornano in regia. Torniamo in regia. Un solo suggerimento che voglio dare. Si tratta di un libro. Il libro che parla delle gesta di Luigi Masetti, che è stato il primo cicloturista conosciuto, almeno italiano, di Centa, emiliano. E il libro si chiama L'anarchico delle due ruote. Lui praticamente nel tardo 800, fine 800, iniziò per passione a girare in bicicletta. È arrivato, pensate, fino a Chicago. Boia. Bella. Tanta roba. Bella. Avevano biciclette che pesavano più di 20 kg. E una curiosità, fra l'altro, dice che le salite erano un casino davvero. E non avevano il cambio. No, sì, ce l'avevano il cambio, secondo me. Ma no, le salite erano proprio un problema, perché erano pesantissime. Quindi a spinta. Esatto, rizzavano tutto sulla ruota di dietro e via. Ok, sì. Mamma mia, sì. Ma abbiamo visto che anche le foche bevono Radio Wombat. La foca è un animale strano. Hai incontrato animali strani in Peloponneso? Animali strani? gli unici animali... Ah no, guarda, dite la verità, sì. Sono arrivato a un posto che si chiamava Capirassia. E lì sulla spiaggia insomma, sono arrivato e c'era una tempesta incredibile. Mai passato dentro, insomma, una tempesta del genere dentro una tenda. E insomma, il giorno dopo, bellissimo, mare calmissimo, metto via la tenda e sotto mi trovo un baco, ma grosso, largo almeno 3-4 centimetri e lungo una decina. Verde fosforescente, con insomma dei colori incredibili, e mai visto una cosa del genere. E ho cercato di com'è, si chiama in inglese Oleander Hawk Moth. Che praticamente quando diventano farfalla diventa tipo un militare. A me è andato un peggio. Un armato. A me in corsi è andato peggio. Mi sono trovato praticamente. Fui costretto a montare la tenda al buio, perché arrivai tardi e in tutta fretta montai la tenda. La mattina, smontando all'alba, erano circa le 6, non potevo mettere la tenda lì, perché in Corsica quando monti la tenda la monti sempre al buio e la smonti sempre all'alba, perché ti fanno il culo i gendarmi. Smontando la tenda ci trovai sotto un biacco che non fu Un biacco vivo. vivo si era rifugiato sopra e io ci ho dormito sopra. Vabbè, il calduccio, dai, Una brutta esperienza. Mentre si diceva che tu sei arrivato ad Atene e non è stato il massimo, no? Sugli animali sì. Cani randagi, allora, quello è un problema. Quello è un problema quando entri nei paesini e sei in bicicletta e ti pesa la bici, non puoi pedalare quanto veloce vuoi. Che sì, una volta un cane mi ha morso sul piede. Insomma, sicché anche il bastone te la tieni. Insomma, allora è vero che i cani ce l'hanno le biciclette. sì. Quindi, ma là sì, è incredibile. Quelli che ce l'hanno con le biciclette sono cani. Chi ce l'ha con le biciclette sono cani. È bionivoca. È bionivoca. Esatto. Però no, a parte quello, no, un sacco di cani randagi. Sì. Mm. E devi stare attento, perché ci sono alcune strade che entri e ti trovi strade chiuse con i cani. E lì non ci passi. E poi... Sì. Come nel nostro sud Italia, anche nel sud della Grecia, il randagismo è un problema grosso, un problema veramente grosso. Saltando di palo in frasca, volevo chiedere invece agli Enduro Crew, com'è quando tornando, com'è stato il rientro alla civiltà, avendo fatto la Via delle Idee, che sì, non è un mese di viaggio come è stato per Mick, però 4 giorni nel bosco. Quindi... Sì, esatto. Beh, io comincio col dire che per me è stata un'esperienza... ancora più traumatica che io pensavo amici. Bellissima, stessi a dire bellissima. No, inizialmente traumatica, poi alla fine, diciamo, mi sono divertito anch'io. Anche perché avevo iniziato da quasi 2 mesi ad andare in bici completamente, non avevo mai fatto nulla. Quindi sei amico di Michele, anche tu, dell'impreparazione. Esatto. Beh. E quindi dopo pochi mesi i miei amici mi hanno chiesto: dai, vieni a fare con noi la Via degli Dèi. Begli amici, Io non sapevo assolutamente cosa fosse. Trappola. Ecco. E nulla, ho detto, boh, proviamo. Ho preso, sono partito con loro e nulla, alla fine si è rivelata veramente una bella esperienza. E nulla, stare in tenda con gli amici, anche quella è stata un'esperienza nuova per me, perché non avevo mai avuto modo di sperimentarla. E devo dire che stare per 4 giorni isolati in modo positivo, senza l'uso del telefono, diciamo, di quello che ne facciamo durante il giorno, e stare un po' fuori dalla realtà di tutti i giorni in città, devo dire che è stata una bella esperienza. E tornare a Firenze dopo 4 giorni è stato da una parte bello, perché comunque l'esperienza era finita e insomma ognuno voleva ritornare alla fine alla propria realtà, però comunque c'è stata una piccola, diciamo, nostalgia dell'atmosfera che si era creata in tenda durante il viaggio. Vabbè, si può sempre ricreare, basta fare un altro viaggio. Vedo Trick, esatto, che smania per prendere il microfono. No, è che, cioè, alla fine stare a contatto con la natura è una cosa veramente bella. E poi col fatto che, cioè, sicuramente tornando dalla Via degli Dei ti fai 4 giorni nel bosco, incontri poche persone e sono veramente esperienze belle. Però anche quando poi si fanno i nostri giri piccoli in giro qua per Firenze, Monte Morello, Roveta, tutti questi posti, e poi trovate fra l'altro i video nel canale, un po' di pubblicità. Trick, ecco, è l'anima marketing. Sì, esatto. E trovate i video così sul canale, appunto, anche andare a fare giri più solo corti. Solo a 99 euro. No. Vai. Anche andare a fare giri più corti di 2 ore e mezzo, e così in mezzo al bosco, Monte Morello, come ho detto. E poi torni in città e sembra essere un altro mondo, perché, cioè, la fortuna di Firenze è che siamo circondati da colline e montagne, e quello sicuramente è un vantaggio, sì. E quindi a noi piace fare le discese con la bici nel bosco, sicuramente è comodissimo. E poi è bello perché stai a contatto con la natura e ci vuole poco tempo ad entrarci, perché esci dalla città in mezz'ora. Ecco, ma sull'equipaggiamento invece, cioè, vanno bene... È già un mezzo di per sé, vanno bene tutte per fare i viaggi oppure no? Sì, per fare i viaggi in realtà sì, cioè ce ne sono alcune meglio, poi dipende che viaggio. Via degli Dei per esempio è molto fuori strada e quindi serve una bici, una mountain bike front, full, quel che è. Aspetta, non essere troppo tecnico. Alla front è semplicemente una bici con gli ammortizzatori anteriori. Si chiama in punta di pedali la trasmissione, ma non diamo per scontato che gli ascoltatori... Le front sono quelle con l'ammortizzatore anteriore e le full sono quelle con anteriore e posteriore. Top. Quindi ammortizzano entrambe le ruote. Mm. Ovviamente avendo una full, quindi una che ammortizza entrambe le ruote, duri più fatica in salita. Perché la bici fa un movimento più si mangia tutto. E per andare in Peloponneso invece? Peloponneso devi praticamente comprare una bici mountain bike easy, 80 euro. Grande. Degli anni 90? No. Sì, non so quando, di che tempo. Però con quanti ammortizzatori? Quella anteriore. Ok. Sì, almeno sì, quello. Perché ho fatto anche un po' di fuoristrada. Però la bici, sì, 80 euro usata dai Tuscany Tour che li vendevano. Un bel portapacchi. Sì, due borse dietro, tenda, sacco a pelo. E ciao, sì. E una domanda, come abbigliamento che ti sei portato? Cioè, cosa avevi dietro? Nulla. Di abbigliamento avevo, sì, ma poche cose, che più che altro era, sì, cose da mangiare, l'acqua è importantissimo. Domanda che ti volevo fare. Wow, sì. Però sì, no, vestiti tranquilli, magliette, niente di ciclismo, niente cose, insomma. Cose fighe, sintetiche. Esatto, sì, pantaloni corti, scarpine easy, alcune volte in Birkenstock, sì, sì. Io ho visto gente con le flip-flop. Esatto. Fare cicloturismo con le flip-flop. Appunto, dicevi dell'acqua, no? L'acqua... Che non ti puoi fermare dove ti pare, esatto. C'è l'acqua appresso. Sì, che anche lì la parte organizzativa della cosa è molto interessante, di l'acqua. Ci sono state delle sere che non avevo acqua potabile e si deve aspettare il giorno dopo. E poi metterti in sella la mattina quando hai sete, hai passato sete tutta la notte. Che è una cosa e che... partire presto, quando è fresco. Sì. Perché se no si affronti il caldo. È un'espressione, una sensazione che ho ben presente. Sì. E quando la fai ti riprometti che non succederà mai più. Poi succede sempre che la... Ora dicevate, io salto, fra i due fate i giri, il bello del bosco, vi piace fare le discese nel bosco. Io vedo che qui c'è Trick, no? Che ha di nuovo un braccio. Che ha di nuovo un braccio, perché esatto. Mi risulta da qualche video che ha avuto una brutta avventura. Sì, esatto, dopo questa esperienza tranquillissima in tenda ho deciso di provare anche la discesa e appunto ho cambiato bici e pensando di essere un fenomeno mi sono buttato in discesa e senza sapere come curvare mi sono sfracellato senza freni sul gomito e mi sono aperto completamente. Però anche da queste esperienze si può trarre qualcosa di positivo, cioè il fatto che conosco, ho capito i miei limiti e nulla, adesso so cosa ho sbagliato e l'ho migliorato e adesso... Ho visto che mi sembra il giro con cui hai ripreso a pedalare è stato quando siete andati sul mare, vicino Punta Ala. Sì, esatto. Punta Ala. È passato anche lì il tempo di rimettermi, avevo subito voglia di ripartire e durante l'estate siamo andati nella mia casa al mare, a Follonica, dove siamo andati vicino a Punta Ala e dove c'erano appunto piste di enduro, che è lo sport che facciamo noi adesso. Sì, e poi dopo essere stati a Punta Ala agosto abbiamo fatto anche il bike park alla Betone, che è proprio più incentrato proprio nel downhill, nell'enduro. E nulla, sono esperienze divertentissime sicuramente. Diciamo un po' più, come dire, reggimentato, no? Perché quella è come andare a sciare, no? Alla fine. Sì. Esatto. No, invece da tutto questo, no? La domanda è, no? Quello che diceva Briccobaldo, la bellezza forse proprio della vita, no? È nei rapporti con gli amici, nei rapporti con le persone in genere. E nel... ultimamente, no? Se ne parlava l'altra sera, questa ricerca, ora si scherza sulla cosa del canale, però questa ricerca della felicità attraverso i social, ti rendi conto che è un inseguire una carota che non raggiungi mai, no? Diventi un criceto, no? Mentre poi fai un viaggio, per quanto breve o lungo che sia, e nell'interagire con le persone, nelle esperienze vere, cioè nel guadagnare sensazioni, esperienze, emozioni, certo. Lì davvero ti carichi, no? Sì. Cioè, sì. Ora non lo so come è stato per voi, quindi la mia domanda è questa: come va cambiato dentro queste esperienze, queste due esperienze di viaggio, per quanto diverse, vai Mick. Verso in questo senso qua è stato molto interessante dare del tempo alle persone, di sicuro, cioè di veramente ascoltare. Quello che ho imparato di più era veramente ascoltare, perché se non ascolti in quelle situazioni da solo quelle le persone stanno dicendo, insomma, puoi perdere qualche cosa. Di fidarti un pochino più delle persone, perché poi oggigiorno siamo in quest'era di paura di affrontare, dove volevo arrivare, di guardare qualcuno, di non so, qualcuno ti saluta o ti sorride, no? Certe volte ho sorriso a persone, ho salutato persone e sembra che ti vogliano, non capiscono il perché, però alcuni che sono incredibilmente semplici nel fare nelle cose, che mi hanno invitato a casa, insomma, cene, pranzi, ma senza conoscendomi, solo il fatto di, insomma, voler venire a visitare un loro paese o il loro posto, diciamo. Che sì, un po' sul rapporto tra le persone, di quello che viene scambiato, ma è fatto riflettere di più, cioè su che cosa, su che argomenti, come passare il tempo con le persone e valutarlo molto di più. Sì. No, anche la cosa bella che dicevi ultimamente, no, siamo riempiti, no, di paura di quello che c'è fuori, per cui usiamo la macchina perché ci vogliamo blindare dentro la macchina, perché fuori c'è il pericolo. Certo. Se viaggiamo, i viaggi che facciamo li facciamo, che so, al Club Med, non lo so, nei villaggi turistici blindati, esatto. Perché fuori c'è il pericolo. Esatto. E questa continua paura di quello che c'è fuori, invece fare un viaggio come hai fatto tu ti dimostra che sì. Esatto. Sei scoperto, sì, sei molto scoperto. Sei molto scoperto, però alla fine il fatto di esserlo forse guadagni la fiducia degli altri. Esatto, esatto. E veramente tenere basse anche le nostre, diciamo, guardie. Sì, le nostre guardie troppo. E pensieri di sapere qualcosa o no, ma sì, di ascoltare. Ascoltare era una cosa molto, sì, era lì, era un punto molto forte. Se qualcuno ti dice, guarda, lì c'è una fontana, tu non l'hai, non lo senti, poi esatto, la notte esatto. La fai, perché a me quello è successo. Esatto, esatto. La notte la fai morendo di sete. Sicché sì, anche dei posti dove andare, sì, ti consigliano, insomma. Perché poi era un periodo nella Grecia che non c'era più turismo. Sicché era un pochino più desolato, paesini veramente vuoti, che durante l'estate mi dicevano tutti che sono strapieni, diciamo. Però arrivi lì e, insomma, cani randagi, tutto abbandonato, per poi, insomma, la stagione dopo. Però, beh, incontri un po' le persone vere del posto. Sì, sono molto. Sì, ormai forse vivendo a Firenze si sviluppa anche un'allergia al turismo, no? A me le volte che è capitato. Sì, si sviluppa. Sì. La volta che è capitato di sì, no, proprio l'odio. Cioè, sì. E le volte che mi è capitato di arrivare in bici in posti proprio straturistici, che proprio lo senti a pelle perché ormai sei abituato a Firenze, la voglia è di scappare, anche se è piccolo il posto, che magari è la voglia è di scappare, neanche di fermarti a prendere l'acqua, no? Perché no, proprio chiaro. È tutto finto, certo. Ti dà fastidio il finto. Esatto. A un certo punto. E no? Ci sta, anche l'acqua non è buona. Esatto. Oh, anche. Bricco, volevi dire qualcosa? Sì, volevo fare un parallelo e mandare un pezzo. Ah, cioè, già, vero. Vai. No, ne approfitto per questi viaggi in bicicletta, perché ce n'è stato uno che è stato molto importante nella storia dell'umanità, viaggione, oserei dire. Viaggione. Sto parlando del 16 aprile 1943, il cosiddetto giorno della bicicletta, giorno nel quale Albert Hofmann ha scoperto l'LSD, o meglio, l'aveva scoperto già qualche anno prima, nel 1938, ma poi si rese conto degli effetti e solo il 16 aprile 1943 decise di assumerne una piccola dose per sperimentare gli effetti che poi conosciamo, conoscete, non lo so, ecco, comunque. Pensate, questo simpatico nonnetto, nonostante le sue sperimentazioni, è campato 102 anni, morendo nel 2006. È vero. Esatto, c'è un film, un corto di animazione da vedere, molto carino, si chiama The Bicycle Trip, fatto da un'accademia italiana di film d'animazione. Ma non solo loro ci hanno pensato anche Pink Floyd con Bike. Bella. Buon ascolto allora. I'll give you anything, everything, if you want things. primo viaggio completo di prova della nuova linea tranviaria Vespucci, quella che collega Piazza dell'Unità all'aeroporto. Non ci sono stati particolari intoppi, anzi abbiamo visto la curiosità di tanti passanti e automobilisti per questo nuovo importante traguardo nel trasporto pubblico della nostra città. Eccolo, l'avete sentito, il Prada Nardella. Anche lui ha fatto un viaggio. Anche lui ha fatto un viaggio con la tranvia. E anche un signore quest'oggi ha fatto un viaggio, ma all'ospedale, è centrato dalla tranvia. Boia. Oh, io non lo ebbene sapevo. Ebbene sì. È così. Come ha fatto? È colpa di Nardella? No, ora magari è colpa di Nardella, no. Però nel senso, ecco, l'ennesimo incidente per le due ruote. Sì, attraversava i binari e è stato preso. Forse non oggi, ieri. Forse ieri. Non lo so. Sì, una cosa recentissima comunque. E niente, si parlava di paura. E quindi, a proposito di paura e braccia rotte, ritorno a Florence Enduro Crew. E per voi, quando partite, qual è la paura? Cioè, c'è la paura, c'è la strizza? Ma allora, sicuramente in partenza da Bologna, quando abbiamo detto bene, ora bisogna arrivare a Firenze, cioè tornare a casa. Ma la paura poteva esserci dal punto di vista meteorologico. Cioè, magari ci si becca l'acquazzone super mentre si pedala e quello è faticoso perché poi in gruppo ovviamente si creano quelle situazioni in cui uno dice andiamo a ripararci sotto l'albero, oppure lui dice andiamo avanti, un altro dice fermiamoci a chiedere ospitalità. E quindi anche lì ti devi un attimo, il gruppo, il fatto di essere in gruppo è sicuramente, cioè da quel punto di vista alla fine unisce, aiuta. Certo. Perché poi quando torni a Firenze dopo tutta l'avventura, cioè conosci molto meglio la persona con la quale hai avuto a che fare e quindi sicuramente è bello quello. E la paura, la bici, ma in realtà non più di tanto, perché poi in gruppo appunto anche quello ti senti più sicuro. Sì, sicuramente in quattro, cioè lui da solo fino in Grecia è un'altra cosa. E no, però no, paura sinceramente non più di tanto, ecco. Brick, anche tu? No, beh, riguardo alla paura, neanch'io, diciamo, più di tanta, perché alla fine mi sono ritrovato con persone che frequentavo tutti i giorni. La piccola paura che avevo, forse, insomma, era di non riuscire a farcela, perché da come mi avevano anticipato, salite ripidissime, io non avevo per niente fiato e gambe, quindi non so se avrei potuto farcela, ma alla fine, anzi, si è rivelata veramente, no, la paura comunque è stata superata sicuramente. Forse ecco, la cosa che ti cambia dentro è quando superi una tua paura, ti senti uno scalino un po' più su, non rispetto agli altri, cioè dentro di te è una cosa, c'è un bel libro che è Point Lenana, che parla appunto, lì è ancora più per gli alpinisti, Che quando alpinisti non immaginate dei grandi, cioè l'approccio non è essere dei grandi eroi, no? E loro dicono: noi andavamo in montagna per elevarci nel nostro spirito dentro noi, non sugli altri, non sopra gli altri, ma sopra noi stessi, no? E quella è un po' la cosa che senti in bici, a parte appunto, come si diceva nel fuori onda, le 4-5 pedalate della paura, no? Che è quando il momento in cui stai partendo e hai paura che succeda di qualunque cosa, almeno per un viaggio in bici è così, hai paura, a me capita di aver paura che mi cadano gli occhiali, che mi cadano l'orologio, il portafoglio, non lo so se a te è successa una cosa. Sì, no, certo, infatti come si diceva prima, insomma, dopo le grandi salite, facendo poi una discesona, con le scarpe lacciate male dietro, insomma, ti perso la scarpa lì per lì, però va bene, va benissimo. È andata, cioè, è andata. Sì, era una discesona. Anche quello di perdere cose era interessante, quello, cioè vedevi con quanto stai ancora bene senza anche delle cose con forse il minimo. Esatto. Sì. Forse non per citare Fight Club, Bricco, ma le cose che possiedi alla fine ti possiedono, quindi invece parti in viaggio, perdi una ciabatta e sei meno posseduto, perché la ciabatta ti possiede di meno, forse. Ci sta. No, diciamo che comunque in viaggio tendi a portarti, soprattutto in bici, le cose veramente essenziali, cioè le cose che proprio non puoi farne a meno. Certo. Questo ma... è già un buon passo avanti, verso una vita più sobria. Sì, certo, sì, ma poi certo, sicuramente anche il fatto di viaggiare con la bici ti obbliga in qualche modo a prendere meno cose e a arrangiarti un po'. Cioè, sì, cioè comunque uh-huh, il peso sono tutti elementi che ti rallentano, quindi cioè, te parti già con le cose essenziali e quello anche cioè, ti aiuta parecchio, perché ti rendi conto che molte cose poi puoi benissimo riuscire a farne a meno, cioè di tante cose. Bello, sì, verissimo. Sì, sì. La cosa, io viaggi ora, appunto non ho mai viaggiato un granché in bici, però quello che ho sempre cercato è ogni viaggio, se così si può definire, mm-hmm, ben diverso dal visitare, ogni viaggio però ti lascia un qualcosa. Certo. E ti lascia, è difficile farselo lasciare, nel senso che è una cosa magari vissuta e che sembra naturale durante dei giorni, come può essere un viaggio, anche un cammino degli dèi, poi trasportarle nella vita di tutti i giorni, nella routine, questa è una cosa ben più difficile. Sì, certo, sicuramente, quello è vero. A te, Ryan, hai qualcosa da dire? Trick. No, è vero, assolutamente. Avete fatto venire in mente... C'avevo una citazione pronta, però è il momento adatto, che viene dal Lo Zen e l'arte di andare in bicicletta, che è il libro di Claude Martaler, che è questo cicloturista svizzero, cioè decano del cicloturismo, uno dei primi che ha iniziato a scrivere libri. Comunque, quello che dice, che mi piace, è questo. La distanza da percorrere è incomprimibile, come l'aria in una pompa. Così in bicicletta ogni cosa, cibo, posizione, beccheggio e nel principio anche nel ritmo, è incomprimibile. In più, un viaggio senza data di ritorno ha qualcosa di atemporale. Un viaggiatore conta il proprio tempo in viaggi, non più in anni. I miei ricordi si ancorano alle stagioni, ai luoghi, ai passaggi di frontiera, agli incontri, una sorta di nuova forma di calendario naturale e imprevedibile. Cioè, bello. Mi è bella, bello, ispirante. Bellissimo. Sì. Bricco, ti è venuta voglia di pedalare? Sì, mi è venuta mi viene sempre voglia di pedalare. Io sono un più che altro un pedalatore urbano. Si parte per il Kazakistan. Si parte per il si fa, è fattibile. Sì. Mica hai da fare tu quest'estate? Quest'estate per il Kazakistan proprio. Vedi che c'ha l'occhietto, che secondo me ha progettato qualche viaggio. Ce n'è un paio, sì, forse Portogallo è uno, andare verso Portogallo. E poi cioè, ho anche pensato a fare anche arrivare vicino all'Asia. Però insomma, sono sempre progetti. Sì, progetti per ora. Voi invece? Bah, idee di prossime imprese? Prossime imprese non saprei. È impreparato. Ma eh? Sicuramente è prossima estate finiamo la scuola con la maturità e quindi... Che già è un viaggio. Grande viaggio. abbiamo in mente di andare in qualche bike park sulle Dolomiti così. Ma no! Lo so, però... Va bene, sì, va bene. E come viaggio, non lo so, potremmo pensare poi più in là. Andate fino al bike park in bici. Esatto. Se e poi torniamo indietro senza andare al bike park. Esatto. Perché poi non basta, cioè, anche andare lontano, vicino. Perché ho visto, cioè, stavo ascoltando anche seguo dei ragazzi che fanno il giro del mondo in bici. E c'era un ragazzo e ci ha messo tipo 2 anni e mezzo. E poi ritornando a casa... Il giorno dopo si è svegliato e ha detto: oh, vabbè, ho girato il mondo, però sono tornato a casa. E ora che fo. Si riparte. Ha cominciato a fare dei mini, diciamo, tour di qualche giorno, ma vicinissimo a casa sua. Mini adventure. Esatto, mini adventure, e anche lì, insomma, puoi scoprire tantissime cose che non importa andare, insomma, in Grecia o in qualsiasi, cioè basta partire e non andare in un posto che non conosci. Dico, noi andiamo comunque in Kazakistan. Noi andiamo comunque in Kazakistan, esatto. Sì, no, comunque è calzante quello che dice, perché effettivamente poi il cammino degli dèi è a 2 passi da Firenze, da casa, e può riservare veramente tante sorprese. Fra l'altro, ho visto che hanno aperto un nuovo cammino parallelo a quello degli dèi, si chiama la Via della Seta, che farà da Bologna a Prato, passando per Porretta Terme. Niente, è un nuovo percorso dello turismo slow, più o meno simile al cammino degli dèi, quindi tocca tutta una serie di anche attività lungo il percorso, agriturismi e via discorrendo. E, sì, però vuole ripercorrere l'antica Via della Seta. Bello, bello, bello, bello, bello. Ma anche il, quel, la via Francigena, è possibile farla in bici? A voglia, sì, sì, okay. È un'autostrada, c'è un sito... Ah, ecco, guarda, ci abbiamo gli esperti, ecco. Sì, allora, noi non abbiamo... Noi due non abbiamo avuto esperienza personale, però altri due membri, diciamo, della crew quest'estate sono stati appunto sulla via Francigena facendo un piccolo pezzo fino a Roma, se non sbaglio. Beh, da Siena a Roma. Ah. E, a parte meglio. Sì, mi hanno detto che la loro esperienza è stata molto più breve e molto, molto più leggera rispetto alla via delle idee, comunque. Certo, certo. Perché lì parte inizialmente la via Francigena, parte dall'Inghilterra? Sì, esattamente da Canterbury. Poi la parte diciamo italiana inizia in Val d'Aosta, certo. Viene giù, attraversa diciamo nella zona di Piacenza, risbuca ad Aulla, Pontremoli, scende giù, e poi Lucca, Altopascio San Miniato sulla no, ma San Miniato. San Miniato Alto? Sì, quello lì. Vabbè. Okay. Gli indigeni siete voi. e poi via giù. Bello, Siena, bello. Via. Quello è bello. E si fa in bici. Tanti cicloturisti tedeschi passano da lì. Adesso anche interessante col fatto anche che è un... quelle strade lì sono dei pellegrini, insomma, sì, che se c'è uno scopo un pochino più diverso, c'è un'altra motivazione per cui insomma, sì, anche lì è, secondo me, il viaggio, no? Il viaggio che ti cambia dentro, perché tu cammini o pedali, però vai appunto con un ragionare dentro di te, forse, no? Sì, ora, sì. Io sono ateo, quindi non lo so. Però, però sì, è un qualcosa di interno, un viaggio molto interno, anche se è... fuori. Bricco, vuoi mettere un pezzo? Che vuoi fare? Dici non lo so. Io sono interessatissimo, li lascerei parlare per ore, però sì. Vedo che l'orologio freme. Siamo un po' in chiusura, sì, effettivamente. Vabbè. E allora, o li invitiamo per la prossima? Allora, no, prossima possiamo dire che intanto per qualsiasi viaggio, ecco, siamo qua, noi siamo pronti a... Ci interessa sentire le esperienze delle persone che utilizzano la bicicletta sia tutti i giorni che anche per spostarsi, i pellegrinaggi, spostarsi da un posto a un altro. Sono sicuramente delle esperienze che non tutti riescono a fare, non tutti neanche si immaginano di poter fare, certo. Però a noi interessano. Quindi siete comunque benvenuti nella regia, nella Tana del Wombat. Grazie. Grazie a voi. L'ultimo consiglio che vi vorrei dare è quello di continuare ad ascoltare Radio Wombat, naturalmente, per gli ascoltatori e le ascoltatrici. Abbiamo alle ore 20 l'Accademia della Brusca e alle ore 21:15 8 Hertz questa sera, poi tutto il resto è in palinsesto nei prossimi giorni. Sapete che è uscita un'intervista di Radio Wombat su invece i ciclisti urbani, non sul nostro programma, ma su Passaggi a Nord-Ovest, quindi accidenti. È un'intervista sì che... bisogna chissà andare chi è questo intervistato, non si sa chi è, lo scoprirete, però parla della situazione soprattutto nella parte nord-ovest, quindi andando verso Sesto. Bello, è bello. Una parte critica anche quella. Molto critica. Critical. Forse un giorno sarà critical quella parte. Detto questo, signori e signore, io metterei l'ultimo pezzo che è un po' uno... punzecchiare, dai. Buon. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripetuta

Brancaleone da Norcia non fece mai a mezzo con nessuno. Vai, vai, vai, mala bestia.